la bukolo Matati ira bukolo Tisha wa umita dolo Tuke murida Muadide Muadide Sute sasa veda Tuma mala edo Afia tanda budim sapare Sawa Mathieu Dieu, awa sawanga Dieu, basta winda ada, basta winda ada, yamini wa shimadi, yamini wa shimadi, karatu budia di, karatu budia di, basta di ya daini, basta di ya daini, basta kurabe bayi, bayi. Ulaya ye, karibu na hindi, ulaya ye, karibu na Wadada, Bora Sanama, Usuku Tabadiani, Sinabu Nane, Naya, Carbonai, Naya, Carbonai, Suadada, Bora Sanama, Usuku Tabadiani, Sinabu Nane, Everyone, Mama, what here is in that tattoo? Why, everyone, Mama, what here is in that tattoo? Who's in that name? Suwalala, Bora Salama, Usungu Nabani Para Ay, bébé, bébé, à ta ma musique. Naïsébé, à soi du laba, à soi paravan. Clip, à ta ma musique, y'a pas du mama oreo. Naïsébé, à soi paravan. Oui, je le petit. Yeah, boy.

de azaya mata kachimle ya wete. Hai lo lo mama, hai lo lo, hai lo lo mama, hai lo lo de. Uza de azaya mata kachimle ya wete. Hai lo lo mama, hai lo lo, hai lo lo mama, hai lo lo de. Uza de azaya mata kachimle ya wete. Hai lo lo mama, hai lo lo, hai lo lo mama, hai lo lo de. Uzade azaya mana kashimle ya weke. Hai lo lo mama, hai lo lo, hai lo lo mama, hai lo lo hey. Uzade azaya mana kashimle ya weke. Kani wakumadi nu hai lo lo, hadi sana sumadi hai lo lo hey. Uzade azaya mana kashimle. Hey hey. Hai lo lo mama, hai lo lo, hai lo lo mama, hai lo lo hey. I don't know, eh? I hey, hey! I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I Away! Away! chica, la chica, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey. Tu le veux pour nous, tu le veux. sous la belle la coma belle. Wanyu balola na mwende malale, wasu wasu bana mjeri kate tile. Tile mburu tile, tile mburu tile, tile mburu tile. Achita, achita, achita, achita.